Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Oltre al maestro c'era l'apostolo, la vestale, il catalizzatore, le ancelle, anche la mamma dell'ex fidanzato della giovane che adesso è in carcere, partecipava a questi riti, assisteva. Questo santone riusciva a catturare queste prede, perché in questo caso si tratta di prede, attraverso questo meccanismo dello scambio di forze. Lui chiamava l'atto sessuale scambio di forze, nel senso che lui nel suo modo di approcciare queste vittime diceva: tu hai una negatività, hai il demonio dentro di te, quindi io ho bisogno di aiutarti scambiando queste forze. In realtà era un modo per iniziare un atto sessuale, che in questo preciso caso è iniziato con l'uso di sostanze stupefacenti. La ragazza racconta in più verbali di essere rimasta incosciente almeno nelle prime occasioni. Poi il gruppo ha preteso da lei la coscienza, cioè l'atto sessuale cosciente, e l'ha convinta a questo ulteriore passo attraverso il ricatto. Ecco, Massimiliano. Io ho le foto, tu devi fare questo perché altrimenti... Amor. Amator, amides, idiodanich, amor, plaior, anitor. Per il potere di questi santi angeli io indosso questa possente missione e grazie ad essa porterò al successo le cose che ardo dal desiderio di compiere. Grazie a te, o santissimo Adonai, amor, amator, amides, idionaich, amor, plaior, amitor. Ed ecco, con questa cazzata la gente era capace di mettersi prona di fronte al santone di Torino che prometteva la purificazione. Ma oddio, bastava un minimo di cultura, bastava aver letto Boccaccio. Mettilo, diavolo tuo, nello mio inferno, capito? Da sempre c'è stato qualcuno che aveva qualcosa per sturare via i demoni, e guarda caso questa cosa sta sempre sotto l'ombelico, e guarda caso i demoni stanno sempre nelle donne o anche negli uomini che comunque si sentono indemoniati. Ecco, questa è per ritornare ancora una volta a riflettere su questa sorta di irrazionale che sembra non scomparire da una società che ormai, da come dicono e si strappano le vesti coloro che hanno una profonda fede, sia totalmente laicizzata. Ma laicizzata dove? Secolarizzata dove? Se ancora ci sono frotte di persone che danno i loro soldi e anche il fiore della loro virtù anteriore, posteriore, interna, esterna, non ci stiamo a entrare, a un signore lì, un numarel, un ex professore di matematica che leggeva queste formulette che ho appena letto e con queste faceva pensare loro che lui era capace di scacciare il demonio. Non solo, era anche capace di fare dei riti di fertilità. Noi abbiamo fatto pochi giorni fa una trasmissione proprio sull'infertilità maschile. Pare che invece il santone fosse molto fertile, che da queste, diciamo, terapie di gruppo molte delle signore che lo frequentavano, e me, quella citata, la sua vittima citata dal servizio che ha preceduto il mio scongiuro esorcistico, era una minorenne, quindi una cosa molto grave, ma il cui fidanzato era stato costretto a accoppiarsi con la sua madre. C'è anche una fantasia poliedrica, nemmeno nei trattati del Divin Marchese de Sade si trova tanta fantasia. E questi, probabilmente questi due signori attempati, anziani, hanno trovato la formula per passare tranquillamente l'età pensionabile. Altro che andare a giocare a boccia, andare al campetto, farsi il quartino di vino con gli amici, andare in giro a guardare i cantieri. Ma no, certo, è chiaro, è molto meglio scacciare il demonio alle povere postulanti che si sentono possedute e cercano stranamente e misteriosamente il martello purificatore. 800 24 00 24, avete mai avuto sentore di qualcosa del genere nella cerchia dei vostri amici? Vi è mai venuta la tentazione di farvi scacciare il demonio? Avete mai avuto l'idea che potesse esserci un diavolo da cacciare dal vostro inferno? Insomma, avete mai avuto la tentazione dell'irrazionale, dell'occulto? Avete conosciuto persone del genere? 800 24 00 24, a tra poco. Melog. cronache meridiane. Cioè, improvvisamente, no, in fondo ad un sentiero, no? Vedi come la figura di un uomo, no? Vestito di bianco, no? Cioè, dal cui volto veramente splendeva una luce un sacco strana, no? Cioè, ma la cosa ancora più strana era, cioè, che mentre io mi avvicinavo a lui, no? Cioè, mi sentivo prima un sacco caldo, no? Poi un sacco freddo. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Perché non rimani qui con me questa notte? Potremmo ripararci insieme sotto questa frasca. Anche perché di notte, no? Un sacco di spiriti malvagi potrebbero turbarti durante questo tuo cammino, no? E niente, allora io accettai, no? E ricordo proprio che trascorsi questa notte con lui, no? Sotto un cespuglio, no? E veramente di notte proprio si sentivano proprio tutti questi spiriti malvagi, no? Che aleggiavano intorno, no? Però io, cioè, ero abbastanza sicuro, cioè, anzi no, ero sicurissimo, proprio perché lui mi difendeva proprio con una lunghissima spada di fuoco. Cioè, quando la mattina ci svegliammo, no? Cioè, lui, il maestro, non mi disse, adesso prosegui, vai sempre dritto, no? In fondo a questo sentiero, perché troverai un grandissimo casale bianco, no? Con una grandissima piscina, dove un sacco di ragazzi di tutto il mondo, no? Stanno formando una grandissima comunità, no? E là veramente incontrai ragazzi un sacco simpatici. C'erano un sacco di cileni, rodesiani, tedeschi, inglesi. 80024. Eppure... ci si è scherzato tanto, ci abbiamo riso tanto sulla spada de fuoco. Tutti sappiamo che comunque sia c'è sempre qualcuno disposto a turlupinare l'essere umano in difficoltà, in un momento di perdimento, di smarrimento, di delusione, per riportarlo sulla retta via. E di retta via c'è ben poco, ma c'è il retto uso della spada di fuoco, che è una cosa che ormai dovreste saperlo, dovreste capirlo, dovrebbe essere scritto a lettere di fuoco ovunque, eppure c'è ancora chi vive alle spalle degli altri. È in crisi qualsiasi attività che nasce nel mondo arcaico. Non ci sono più i mestieri di una volta, non ci sono più gli artigiani, non ci sono più le ricamatrici, eppure i santoni ci sono sempre. Ci sono dal Medioevo a oggi, ci sono sempre santoni. Come mai? Come ve lo spiegate? Maddalena, buongiorno. Ciao, buongiorno. Io ho scritto perché ho avuto una vicenda che mi ha sfiorata, nel senso che io non ci sono entrata. Qualche anno è stata lambita dalla spada di fuoco. Esattamente. Lo racconti nei minimi particolari. Allora, qualche anno fa ho conosciuto una ragazza, comunque si parla di una persona laureata con master, quindi cioè non una scema ignorante così. E niente, era molto simpatica, allora cominciamo a uscire così. Poi una volta io ho avuto il sospetto di piacere un pochino a lei, così, però d'altra parte io era un po', era un po' affascinata da lei, vabbè. Sì, però diciamo non c'era problema, quindi assolutamente non c'era problema. Ma che c'entra? Quello non c'entra nulla. Anche perché io sono anch'io gay, quindi ci poteva anche stare, però. Ma anche no, poteva starci, uno un po' piacergli, una donna comunque. Allora niente, eravamo lì, prendevamo un aperitivo e lei a un certo punto, così di punto in bianco, mi fa: ma secondo te qual è l'energia che muove l'universo? Allora io, tutta romantica, poetica, un po' così, davanti di ieri, stavo dicendo l'amore inteso così. Cosa tre volte dice? Però, love, love, love, devi dire. No, lei invece mi interrompe e mi fa: il sesso. Vabbè. Allora io penso che io dovremmo andare a parare. Allora niente, si mette a raccontarmi del fatto che lei ha conosciuto questo tipo, che è un guru e che fa dei riti propiziatori, che l'ha tanto aiutata e lei ogni tanto va da lui. E niente, evidentemente, non so, lei gli aveva parlato di me, gli aveva mostrato delle foto, non lo so, però fatto sta che ha preso il discorso alla larga e ha cominciato a dirmi che ci sarebbe un rito che potrebbe aiutare tutti e tre, perché questa energia che scorre tra noi. Ma lei che problema aveva? Lei che problema aveva però, Maddalena? Allora, secondo me questa ragazza... No, ma lei aveva... Maddalena, lei Maddalena, io. Per fare questo rito, che bisogno aveva? Stava male? Aveva... No, io stavo benissimo, ero contenta. Cioè, il rito, stavo contenta che senza rito, infatti, poi non avendo bisogno... Come le vitamine, si prende così, tanto perché cambia stagione. Sì, diciamo, le vitamine le prendo dalla frutta e dalla verdura, quindi non ero molto propensa, ma io lì sono rimasta basita, mi pare, insomma, alla fine le solite cose che ho sentito anche adesso alla radio. Ma cosa le ha proposto? Cosa le aveva proposto? Mi ha proposto, allora, un incontro a tre, dicendo: no, ma guarda, il sentimento non c'entra il sentimento, perché io ho provato a dire: guarda, io sesso lo faccio se un minimo, non dico di essere innamorata, ma ho stima, mi piace la persona, mi parli di qualcosa con uno a tre, uno che non ho mai visto, non so chi è, cioè no. E lei: ma no, il sentimento non c'entra, perché questo è un rito, è una cosa sacra, non c'entra niente il sentimento, cioè non è vero sesso, capisci? È uno scambio di energie che servirà. Vabbè, è sempre la vecchia storia, come vede, c'è sempre questa energia che deve passare, ma chissà perché. la spina della corrente è sempre quella, e la presa della corrente è sempre quella o quelle, capito? Quindi è stata, diciamo, era coinvolta in un affare di spada de fuoco. Vedete, è più che mai palese che se ne parla tutti, ci si scherza tutti, si racconta come fosse una facezia impossibile. Poi anche la signora plurilaureata trova un'amica e la vuol portare dal santone con la spada de fuoco. Antonietta. Buongiorno. Buongiorno. Allora, praticamente qui non si tratta soltanto di persone private, ma si tratta anche di sacerdoti. Anche questo lo sappiamo, le cronache, ecco, ce ne hanno... Però non per cose sessuali, ma bensì per quattrini. E che tipo di riti? Mi spieghi bene, perché sennò... Una persona, sì. Intercede tramite questa persona dicendo che parla con gli spiriti. Allora, lei conosce un sacerdote che dice di parlare con gli spiriti? Sì, l'ho conosciuto. Un prete, proprio un prete vero? Un cappellano, addirittura. Certo, questa è una precisazione ovvia, chiaro, sia cappellano. Ecco. Quindi? E quindi praticamente tuttora certe persone mi consigliano di andare da queste persone perché per il fatto del mio figliolo, che da quando ha conosciuto un extracomunitario si è ribellato in famiglia. E colpa? Cosa ha fatto? Un voodoo? Qualcosa del genere? Come? Prego? Le ha fatto un rito voodoo questa signora straniera? Non lo so, perché io non l'ho conosciuta. Ma lei sospetta questo per andare dal prete che parla con gli spiriti? Beh, io ho parlato con delle persone e mi hanno detto di andare da un prete. Ma perché c'è un motivo, diciamo, magico dietro questo figlio che non le parla più, secondo lei? A casa era un tesoro, adesso è diventato un diavolo. Ma cosa fa? Spieghi i fenomeni, però, il fenomeno. Insomma, praticamente a me mi tratta male. In che senso? Ma sia precisa, però. Precisa nel senso che io, insomma, a un certo momento mi comanda, adesso ultimamente no, però mi diceva le parolacce, roba che in casa mia le parolacce non si sono mai dette. Ci ha detto qualche... Vabbè, è colpa della ragazza. La ragazza cos'è, africana? Prego? La ragazza cos'è, africana, diciamo? No, è dell'est. Una ragazza dell'est. Sì. E quindi però non c'è allora il voodoo, questi rituali non c'entrano, una razza celeste è una razza cattolica probabilmente, quindi perché andare... Ma anche cattolica? No, non lo so. Assolutamente, se fosse una persona cattolica non si comporterebbe come si è comportato. Ma anche il prete che fa gli esorcismi con gli spiriti è cattolico. Allora se la maggioranza dei preti sono quasi tutti così. No, non lo so, vabbè, comunque le hanno detto che questo prete avrebbe fatto dei rituali per riportare suo figlio a essere un bravo ragazzo. Dicono. Ma quanto costava questa cosa? Adesso mi dicono di andare da questo prete per riportare mio figlio ad essere un bravo ragazzo. Ma quanto costa questo trattamento, secondo te? Adesso non ho trattato. Ma ne è stata fatta una cifra ipotetica, quanto potrebbe voler? No, in questo, da questa persona ancora no. Ma allora può essere anche lo faccia gratis, lo faccia per una buona... ragione, no? È una buona ragione, però io francamente le dico che non ho fiducia. Ma che tipo di rituale fa, gli hanno spiegato? E gli esorcismi. Ah beh, l'esorcismo è ammesso dalla Chiesa allora. No, l'esorcismo si fa tramite il breviario. Quello sì, ma allora cosa c'entrano gli spiriti? Gli spiriti non c'entrano nulla. Ma lui fa parlare tramite una seconda persona, sì. Intercede una seconda persona e tramite questa persona che si mette sul letto, sì. e parla, dice che è lo spirito che si possessa di questa persona e parla lo spirito tramite questa persona. Un medium, il prete c'ha un medium. Esatto. Ma cos'è, un uomo o una donna questo medium? Un uomo. Un uomo, si stende sul letto col prete e parla. Sì. No, da solo. E il prete le fa le domande. Ah, lui steso sul letto, il prete fa le domande e parla con la voce di cambiata, con la voce di spirito. Sì, esatto. Ma la voce gli hanno descritta com'è questa voce? Una voce come una voce del demonio, tipica. Esatto. Con la voce così. Lo spirito buono. Ah, buono. Sì, lo spirito buono. Che cosa dice di solito questo spirito? Che dice lo spirito buono e lo spirito cattivo. Ah, fa tutte e due le voci, fa? Sì. Cioè cambia voce, una volta è buona e una volta è cattiva. Sì, esatto. E queste ci vanno molte persone, le risulta? Tantissime. Ma in che zona è dell'Italia, si può sapere più o meno? A Roma. A Roma, Roma, città santa. In che zona di Roma, solo per capire il quartiere? L'ultimo che io ho trattato è sulla Torre Angela. Dove, scusi, sulla? Torre Angela. A Torre Angela, vabbè, una zona per... A Torre Angela, allora sappiamo, a Torre Angela c'è un illuminato sacerdote che ha un medium capace di fare due voci, cioè lo spirito buono e lo spirito cattivo, e dà delle massime di... cioè aiuta le persone che hanno bisogno, penso. Sì. Si fa pagare. Si fa pagare. Lui dice che non vuole niente. Delle offerte. Sì, beh, le offerte per aiutare la chiesa, chiaro, sì, per le candele, sì, queste, sì, cose qua. Sì, sì. E diciamo, c'è molta gente che ci va? Tantissime. Io adesso ho buttato, cioè avevo pure l'immaginetta con la sua foto e tutto quanto. Adesso mi Ma la foto di chi? Del prete proprio? Del prete proprio. Come un santino? Sì, esatto. Ma come si chiama questo prete? Solo per sapere, lo sa? Adesso non me lo ricordo. Il nome d'arte, è... non anche il... c'ha un nome, no? No. C'è il nome e il nome d'arte, ma adesso guarda. E nel santino cosa c'è scritto nel santino? C'è la preghiera dietro. Beh, la quella è una preghiera, non c'è niente di male. Quindi insomma, però... Che giorni della settimana riceve questo? Nei giorni di, in particolare il venerdì. Il venerdì. Quindi il venerdì a Torre Angela, se non avesse dei problemi, c'è un prete con il medium con la doppia voce. Mirko, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno. Scusi, mi sono dilungato, ma era interessante, è un dato importante sapere che esiste questa sorta di commistione fra religione ufficiale e tecniche medianiche. Questo prete c'ha la fila, quindi funziona. Avvertiamo se c'è un vescovo, qualcuno della zona di Torre Angela, dia un'occhiatina che succede nella sua giurisdizione, perché non so quanto siamo molto aperti, non so quanto sia giusto che un prete usi un medium per farsi dare dei soldi per risolvere i problemi. Comunque, andiamo avanti. Mirko. Sì, niente, io qui a Milano ho un'amica che è entrata in contatto con questa setta, diciamo, cioè le chiamo sette. Io allora, perché... fermo Mirko, ci lasci un attimo di suspense. Lei ha delle informazioni su Milano, l'abbiamo appena avuto su Roma, interrompo solo un istante, prenda fiato, sì, perché allargheremo la nostra indagine da Roma a Milano, fra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Mi hanno fatto stendere sul lettino dove la santona mi mise le mani intorno alla mia testa e dicendomi con questo gesto e pregando le preghiere sarebbero arrivate tramite il mio corpo direttamente a mia sorella. Lei invocava e pregava diversi santi in modo tale che le sue preghiere si tramutassero in energia che potesse andare direttamente nel corpo di mia sorella e guarirla dal male. E mentre la santona faceva questo, intorno a me c'erano tutti i suoi adepti che pregavano in lingue a me sconosciute. Mi hanno addirittura fatto bere una bevanda effervescente che a prima chito poteva sembrare, a me è sembrato un'aspirina. A detta della santona si trattava di una energia liquida che tramite il mio corpo sarebbe poi arrivata al corpo di mia sorella togliendogli il dolore. Io sono arrivata a fare dei versamenti di circa 7.000 euro. L'ultimo è stato di questa cifra. Ma tua sorella ha abbandonato la medicina tradizionale? Mi è stato chiesto dalla santona di abbandonare, mia sorella faceva le chemioterapie, di abbandonare la terapia perché comunque la sua preghiera e la sua energia sarebbero bastate a farla guarire. Fortunatamente questo non l'abbiamo fatto. Questo è un servizio preso da TV2000, preso da YouTube. Vedete fino a che punto poi arriva al cinismo dei santoni, fanno bere l'Alka-Seltzer o l'aspirina effervescente, le impongono le mani, dicono preghiere, si fanno pagare. In realtà questa donna aveva una sorella malata di tumore. C'è un momento in cui la disperazione fa perdere la razionalità. Questo è possibile capirlo, bisogna dare degli strumenti comunque di lettura di questi fenomeni. Mi ero interrotto con Mirko, ci sta raccontando una storia milanese. Abbiamo appena parlato del cappellano romano che tutti i venerdì c'ha il medium che parla con due voci. Mirko. Sì, ci sono, eccomi. E niente, come dicevo prima, io... ho questa amica che si è avvicinata da qualche anno a questa fondazione che si chiama Soka Gakkai. Ma qui sono buddisti, però che c'entra? Non è una setta, sono buddisti. Non è proprio così, Nicoletti, perché Diciamo che il buddismo è un marchio registrato, nel senso... Sì, vabbè, sono buddisti, per dire, anche noi abbiamo un'infinità di sottoderivati del cristianesimo. Sì. I buddisti no, ci ridono, i buddisti ci stanno al buddismo come testimone Geova stanno al cristianesimo, però sono... Quello che volevo dire è però che... Però non mi risulta che facciano queste cose qua, capito? No, sto dicendo che sono molto particolari, cioè dipende in che tipo di organizzazione poi uno si infila. Vabbè, cosa hanno fatto? Sua amica cosa ha fatto? No, niente di così grave come in questo Ha fatto una scelta. Sono molto laico in questo. Ha fatto una scelta, sì. Bene o male, buddismi reali, finti, certo. Di seconda categoria. Se lei certo. Fa bene, vada lì, non lo so. No, qua non entriamo nel piano del crimine. No. Nel piano del crimine entriamo quando ci si fa pagare e si gioca sull'ingenuità delle persone. C'è anche da dire che gli ingenui si mettono nelle mani di queste persone. Poi alla fine, infatti, gli aspetti processuali, laddove non ci sia violenza sessuale, estorsione, via dicendo, non c'è un reato di plagio. Alla fine, se una persona si affida, se io con la formula che ho letto prima, amor, amatorra, mi desse, dico guarisco, mi metto fuori, apro un baracchino che io guarisco con questa formula, nessuno mi può impedire, cioè libero esercizio della cialtroneria ancora nel nostro paese, o mi sbaglio? Vincenzo Mastronardi, buongiorno. Buongiorno a lei Gianluca, buongiorno agli ascoltatori, eccoci qui. Allora, ricordo che Vincenzo Mastronardi, questa volta è sempre nella veste di criminologo, ma è coautore del volume Sette sataniche, dalla stregoneria ai messaggi nella musica rock, Misteri del mostro di Firenze, Bestie di Satana, edizione Newton Compton, quindi è una fetta della disciplina che lui studia e insegna. Vediamo cosa ha da aggiungere professor Mastronardi a quello che abbiamo sentito. L'abuso della credulità popolare, questo è un problema vecchio quanto il mondo. La disperazione, il disagio esistenziale, la necessità di dare a se stesso dei punti fermi fa in modo che la singola persona in un momento esistenziale di particolare confusione esistenziale a questo punto cerca attentamente tutto quanto quello che intorno avviene, intorno gli si presenta e persone affette da narcisismo, sia pure patologico o caratterizzato da meccanismo di autoconvincimento riverberante come molti pseudo santoni convincono loro stessi della bontà in cui credono, a questo punto esercitano tutta la loro attività persuasione, di convincimento, credendoci loro stessi naturalmente. Ma il fine qual è? Il fine qual è? Il fine di lucro? Il fine potrebbe anche essere di lucro poi dopo, ma in realtà siccome mettono in atto le leve della suggestionabilità individuale, quindi non c'entra nulla l'aldilà, non c'entra nulla il miracolo che può giungere da un'entità astratta, in realtà ognuno di noi ha in sé le leve, può mettere in atto le leve della suggestionabilità individuale. E ciò che bisogna stare attenti in certi casi in cui non si desidera, poi lo si capisce dopo, quelli che ne vengono fuori, non si desidera scivolare in certi comportamenti che possono poi dopo essere, voglio dire, nocivi per se stesso, per la propria vita, la propria esistenza, restando irretiti in un circolo pericolosissimo. I meccanismi sono quattro, sono il reclutamento, cioè con tecniche di avvicinamento, per esempio il questionario test di personalità, che bello il questionario, sì, è sulla bancarella, andiamo, rispondiamo ai vari quesiti con delle X, questionari multipli, eccetera. Bene, quando ci dà l'esito, quando ci date l'esito, venite sabato alle nostre riunioni e vi diamo l'esito, il primo aggancio. Poi le tecniche di vendita cominciano, libri, corsi, conferenze, dopodiché l'isolamento con la vita affettiva, come? Con la love bomb, la somministrazione massiva di amore, la dedizione quindi totale. Ma amore in che senso? In senso figurato o anche in senso concreto? Che mi sembra che... Ma io direi love bomb, la chiamano così gli americani, ma è una somministrazione temporale, cioè mi dedico con il tempo a disposizione tradotto in termine gergale sarebbe la spada di fuoco. Tradotto in termine gergale è quello che dice Verdone prendendo in giro, è approfittarsi sessualmente delle persone. Ma non solo questo, no? questo segue poi dopo, in un secondo momento, è che mettiamola così, dove trovi qualcuno che sta a tua disposizione, ci sta a sentire giorno e notte, una fidanzata, un fidanzato, sì, ma per quanto tempo? Poi dopo, cara, scusami, ho da lavorare, perdonami, ci vediamo stasera. E questi sono sempre disponibili? Sempre disponibili, questa è la loro bomba. Poi isolamento finanziario. Isolamento fisico, cioè diminuisce il senso di realtà e aumentano le occupazioni, cioè non ti preoccupare, ce la vediamo noi, tu sei deresponsabilizzato in modo totale, assoluto, e quindi peraltro lascia, dona a noi 5.000 euro, 7.000 euro, ce la vediamo noi. Ti amministrano il tuo patrimonio lentamente. Esatto, cosa che non si farebbe se non avvenisse per gradi naturalmente, è la gradualità che purtroppo fa in modo che ci si possa... Però questo, professor Mastronardi, sono le grandi organizzazioni, grandi nomi, questi piccoli, diciamo... arruffa popoli di paese come i due signori di Torino, lavorano su sistemi molto più semplici? Sì, che hanno a che fare comunque sempre con the foot on the door, il piede nella porta, pian pianino entrano, quindi insinuandosi per gradi, ma con gli stessi meccanismi, la love bomb, la somministrazione affettiva, l'amore. Mettono un paletto proprio a volta. Un paletto un po' per volta, è quello che dobbiamo mettere in atto. Io non so se avete presente sempre qualcuno che viene, che ti dà un fiore, non parlo della sì, ma quello è il meccanismo che usano in molti. Ti do il fiore, no, non chiedo nulla in cambio, però ti chiede immediatamente dopo, 5 minuti dopo, qualcosa, su 5 euro, su 10 euro e mano a mano poi dopo sempre di più. Questo è quello che bisogna stare attenti, perché poi si giunge al mantenimento, quindi con i sensi di colpa, con le paure, con le prospettive quindi di carriera da fare all'interno. E una volta passato il limite di guardia, una volta il paletto è entrato e non se ne esce più. Un attimo solo, professor Mastronardi, sentiamo Maurizio che c'ha un caso che secondo me è interessante. Maurizio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Io volevo parlare di allineamento divino. Mi è capitato di conoscere questa persona che pratica questa terapia, che dovrebbe essere una terapia che raddrizza la spina dorsale, si può anche chiamare allineamento vertebrale. Queste persone fanno una visita dove... Abbiamo un fisioterapista in studio in questo momento. Lei spieghi, poi lui viene in studio e mi spiega esattamente come funziona la terapia, in che posizione bisogna mettersi per farsi allineare la spina dorsale. Allora, da prima vengono prese delle misure dove normalmente c'è un piede più storto, c'è una spalla più storta, così. Dopodiché è stato curato con questa terapia? No. Lo sa nei particolari come funziona? Sì, sì, perché la persona che lo pratica lo conosco molto bene. Facciamo una prova scientifica. Fra un istante, lei resta in attesa, entra in studio un vero fisioterapista, che guarda caso era qui perché in Tonti aveva un problema alla schiena, quindi lo sta manipolando, e vedremo se la sua terapia ha un fondamento scientifico. Ci fermiamo un istante. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, abbiamo l'occasione fortuita, casuale, di fare una verifica scientifica su quanto ci dice l'ascoltatore Maurizio, che ha conoscenza di una terapia, un trattamento alla spina dorsale che riuscirebbe a creare questo benefico risultato. Esattamente cosa promette questo trattamento, Maurizio? Allora, questo trattamento promette il raddrizzamento della spina dorsale e benefici di qualsiasi genere a livello psicologico. Sì, ma dov'è l'aspetto mistico? Dov'è il santone? Il santone sta nel fatto che la terapia viene somministrata con la sola imposizione delle mani. c'è nessun contatto fisico tra l'operatore. Ah, non tocca, che, non tocca. Che si definisce guaritore spirituale. Ah, è un guaritore paziente. Spirituale. Allora, abbiamo in studio il dottor Renzo Spano. Renzo Spano, buongiorno. Buongiorno. Fisioterapista, veramente. Era venuto qua per altre cose, ma l'abbiamo preso al volo. Prima di tutto, questo Spano, Maurizio poi ci spiegherà nei particolari come avviene questa cura mistica. Esiste la fisioterapia senza toccare le persone? No. No, non è possibile, cioè ci possono essere tecniche per le quali tu insegni al paziente degli esercizi e il paziente poi li rifà e lo guidi, ma la mano è lo strumento... Cioè se non tocca non succede. Se non tocchi non... E invece Maurizio, come funziona questa cosa con l'imposizione delle mani? Mi spieghi bene. Prima di tutto viene fatta una sola volta nella vita. Ha un costo di circa 130 euro. Vabbè, manco tanto alla fine. No, assolutamente, viene fatto una sola volta, non capisco neanche come possa campare poi una persona, visto che una volta che... Ma lei l'ha visto questo impositore delle mani? L'ho visto su internet, in televisione, perché c'è stato anche un servizio delle Iene e mi ha incuriosito questa cosa dopo averne sentito parlare. E come funziona? La persona si mette naturalmente... In piedi davanti, di spalle all'operatore. Bisogna sempre dare le spalle all'operatore, è la cosa basilare in tutti questi rituali di spada di fuoco. Bisogna dare le spalle all'operatore, questo è il minimo. E poi esatto. Come opera l'operatore? Assomiglia molto a una benedizione, sì. In fin dei conti, vista così, c'è questo movimento della mano che assomiglia molto a una benedizione. Dura com'è il movimento? Secondi. Un movimento oscillatorio? Sì, qualcosa del genere, ecco. Ma lungo l'asse di beccheggio o l'asse di rollio? Cioè dall'alto in basso o in maniera orizzontale? Credo dall'alto in basso, sembra dall'alto in basso vedendo così. E raddrizza, raddrizza le vertebre? Raddrizza le vertebre, immediatamente dopo questa operazione vengono riprese tutte le misurazioni che erano state prese prima e la schiena è dritta. Allora scusi, dottor Renzo Spano, sì. Che si misura sulla schiena per vedere le vertebre? Allora, la misurazione fatta di spalle tutto quanto esiste per esempio per tutti i problemi di schiena, tipo la scoliosi, per cifosi, una base scientifica, si possono misurare, anche se ho anche misurazioni tramite computer con dei sensori, per cui si misura e si può misurare prima e dopo il trattamento. Senza mettere mani a niente c'è un aggiustamento naturale, cioè se noi stiamo in piedi un quarto d'ora è chiaro che la nostra postura si modifica. Ah, quindi diciamo il trucco c'è? Il trucco, fa stare in piedi una persona, lo misura prima. È ovvio che se io ti misuro alle 10.05 e poi alle 10.20 dopo un quarto d'ora che stai in piedi e io muovo la mano, chiaramente una modificazione ci sarà stata. La mano però non c'entra nulla. La mano benedicente non c'entra nulla. Cioè stando in piedi c'è una mutazione, si vede, fa vedere realmente che ha cambiato. Sì, ci sono dei test anche fatti per esempio con il collegamento tra i denti e la postura, si fanno dei test in cui si tengono dei rotolini in bocca per qualche minuto e si modifica la postura o la lunghezza degli arti. Scusi, mette anche qualcosa in bocca questo manipolatore Maurizio? No, no, assolutamente, niente. E lei ha avuto testimonianza dalle persone con cui ci hanno parlato che in realtà hanno un giovamento? Ma io conosco due persone che hanno usufruito di questa cosa e no, non hanno avuto nessun giovamento. Non è cambiato nulla, vabbè, mi sembra logico se non li tocca. Questo mi rassicura, che vuol dire che allora 20 anni di lavoro avrebbe perso ancora... tempo per 20 infatti, anni, dottor sì, Spano. Avrei fatto subito il corso di benedizione vertebrale. Secondo lei, dottor Spano, perché lo fa una volta e basta? Perché una volta funziona, la seconda secondo volta? Secondo me per dare invece un'aura di... così di magia, di mistero, perché diciamo. Se fosse vieni una volta a settimana per quattro volte diventerebbe più un trattamento, allora a quel punto il sospetto ci sarebbe, poi diventerebbe diciamo un abuso della professione medica, non potrebbe farlo, voi vi arrabbiereste come fisioterapisti. Decisamente. Allora grazie intanto al dottor Spano. Massimo un'altra testimonianza, allora, resta buongiorno. In studio, non è detto che non serva il suo aiuto. Massimo, buongiorno. Niente, io tramite un'amica ogni tanto, raramente, tre o quattro volte capitava di andare, ma più che altro per ridere. Dalla Santona? Sì, medium, cartomanti, cose del genere. Però si è capitato una volta. Perché vi faceva ridere questa cosa? Vi divertiva? Ma perché poi trovavamo le incongruenze, cioè il fatto che dicevano cose che potevano essere applicate a chiunque. E pagavate, cioè, comunque pagavate, sì. Sì, 20. Cose 30, piccole. Sì. Ma come avveniva diciamo l'incontro, il contatto? Cosa facevano? Andavano in trance? Cose che potevano essere applicate. Ma andavano in trance, leggevano le carte, la scrittura sì, automatica? Sì, tutto. Sì. Chi, chi leggeva le carte, chi diceva di parlare con gli spiriti, eccetera, ma si capiva alla fine erano troppo generici, non c'era nulla di specifico. E invece una volta cioè, purtroppo è capitata questa signora, questa ragazza, che diceva di parlare con le persone che ci stavano dietro. E chi ci avevate dietro? Interpretava, colloquiava, diciamo, non era proprio una. Sentivate una un calore dietro le spalle, come Verdone? Sì, esatto, e praticamente disse delle cose. In principio. No, mi spieghi bene il set, perché è importante. Voi state di fronte alla Santona, seduti a un tavolo, come stava? Esatto. Alle spalle ha detto: c'avete qualcuno dietro, sentivate questo calore. Lei si vedeva che non guardava noi quando parlava, guardava sopra la nostra testa. Vabbè, quello basta alzare gli occhi, lo poteva fare chiunque. E chiedeva delle cose. È vero che tu, ad esempio, hai un parente così. Ed era effettivamente vero. Ma tipo, cos'è? Però potevano essere cose azzeccante, diciamo così. Vabbè, ma voi aveva fatto delle domande prima sulla vostra vita? Ma diciamo che tutte le domande che c'eravamo più o meno preparate, le rispose lei senza dovergli chiedergliele. Sì, ha un potere veramente. Massimo, adesso non ci stiamo a prendere io in giro. Non posso dire che è una cialtrona, ecco. Diciamo che mi disse anche una cosa che io non ero a conoscenza, arrivando a casa potei confutarla. Cioè, c'era veramente un potere medianico, secondo lei. Cos'è questa? Mi dica questa cosa, così la sappiamo. No, dico di sì, non ho potuto confutare il contrario, diciamo così. Ci ha detto, vai a casa, troverai sotto il letto un gatto. Troverai la lettera degli esami di mia madre, del sangue. Sì. Con gli esiti che sono arrivati, e mi disse anche cosa avrebbe detto il medico in base agli esiti, e così fu. Ma lei gli aveva detto c'era una madre che faceva gli esami del sangue? No, non sapeva neanche che vivevo con mia madre ancora, perché comunque. Esclude a priori che questa potesse aver avuto informazioni, conoscere qualcuno, sua madre? Escludo. Quindi pensa che lei non è convintissimo di aver dato nessun elemento a questa persona per aver avuto queste informazioni? Anche perché poi siamo tornati un'altra volta con un'altra amica che aveva dei dubbi. Ma non può essere che l'amica le ha fatto uno scherzo e aveva già detto tutto prima la Santona. Lo esclude. È impossibile, guardi. Ci ho pensato tantissimo, ma. Lei mette la mano sul fuoco su un'amica, io non la metto manco sui miei genitori, figuriamoci. Potrebbe esserci un altro sistema da quello che dice lei. Io questo non lo so, sì. Non lo posso dire. Però confuto che nessuno sapeva di questa cosa tranne mia madre, e mia madre non conosceva assolutamente questa ragazza. Poi gli aveva detto la mamma: vado dalla Santona? No, non sapeva nulla. Era la prima volta che ci andavo con questa amica, dico vado via con questa amica. Guarda, sono le tecniche dei mentalisti. I mentalisti sono bravissimi a raccogliere e carpire elementi dalle persone che inconsapevolmente gli danno. Non credo che in questo momento possa esserci realmente, perlomeno non è mai stato accertato con la sicurezza scientifica, persone che possano vedere il futuro. Giusi, che vuole? Mancano 30 secondi, sì. Buongiorno, io ho appena chiuso la radio, sono un optometrista, mi occupo di visione e postura, ho sentito che parlavate di postura e volevo intervenire. Ma mica la trasmissione questa è Nicoletta Carbone, chiamare a Cuore Denari, noi parliamo di spiriti in questo momento, lei ha a che fare con gli spiriti? Io ho capito solamente che c'era un fisioterapista, si parlava di benessere, di bocca e di postura, e volevo intervenire. No, non c'entra niente, no, solo gli spiriti, no, non c'entra niente. Ci risentiremo. No, solo se lei ha ammesso che lei, Giusi, ha delle tecniche senza contatto di guarire le persone. Giusy è scomparso. No, io non guarisco nessuno, vedere bene, star bene, basta. Vabbè, questo è il suo mestiere, ma è un'altra trasmissione. Cuore Denari con Nicoletta Carbone è un argomento importantissimo. Oggi non parliamo di salute, parliamo di spiriti e di creduloni. Alla prossima.